Dal mare, era Platamona, alla rotonda, sono stato dalle 4 alle 7 e mezza sono arrivato qua più o meno, e quindi tutti bene o male, chi è stanco dal lavoro, chi è accaldato, insomma è diventata una frequenza di zombie questa, capito? Però in estate credo che sia più o meno normale, dai. Non tanto a questi livelli, ma tutti no, magari, tutti non credo. Io sono andato ieri, siccome giugno è passata che siamo andati pochissime volte, no? A Sollullio dobbiamo fare 3 giorni di seguito e 2 di riposo. 3 di seguito e 2 di riposo. Oppure in base alla nostra disponibilità possiamo fare un giorno di riposo e poi un altro giorno aggiuntivo. Comunque che bello stare in acqua, è come essere in piscina, guarda, è una meraviglia. Poi l'acqua di Platamona, dopo che ha accumulato tutto il caldo del giorno, è bella calda. Ancora più caldo, mamma mia. Acconcisemo. Vuol dire che andiamo tardi. Quando fa troppo caldo non andiamo alle 2, in poche parole, il pomeriggio. Andiamo più tardi. Infatti anche io dicevo ai pochi, domenica era entrata gente, ho detto miracolo, ho detto come ma non sento più Franco, non sento più Alghero, Valerio, non sento più nessuno. Ma Natalino d'Alghero, no? Da Sassari. Sì, ma Natalino bene o male, Sassari la copre senza problemi, e anche oltre. La stessa mia antenna, solo che in una zona più bassa, è tutto lì. Io che stanco, guarda, a me la radiazione solare, sarà lo iodio, sarà la radiazione solare, mi stanca tantissimo. Qua che dopo che torno faccio le solite cosette di rito, sciacquo il costume, mi lavo i piedi, la doccia, il grosso alla doccia l'ho fatto là, però mi lavo i piedi col sapone antibatterico, perché sarà lì ci passano migliaia di piedi, meglio non prendersi funghi o altre cose, e poi collasso, proprio mi assopisco. Ma guarda, gli ombrelloni erano praticamente immobili, sì, ogni tanto qualche istante di brezzina, ma non c'era per niente vento, a malapena c'era una certa brezza, ma poca. Ecco perché stava meglio in acqua, capito? Quando l'aria è mobile sta meglio in acqua, ti tuffi proprio, eccetera. Vabbè, dai. Certe volte c'è un po' di maestralino, quello mi scoccia, perché poi uscire l'acqua è più freddo. Ok, nemmeno Natalino c'è l'ascolto, Natalino, si è venduto tutto anche lui, sa perché lui spegne il baracchino, cioè lui accende, prova a chiamare, se non c'è nessuno spegne. Invece io qua, quando sono a casa, lo lascio acceso tutto il giorno fino a notte tardi. Quindi se qualcuno chiama lo sento, tanto mi non consuma niente da acceso, metto lo squelch in modo da non sentire, appena appena gli squelch, in modo da non sentire QRM o soffio del ricevitore, e non senti nulla finché non chiamano. Purtroppo, come dice qualcuno, la situazione è tribula. Chi opera una ragione per l'altra non entra. Siamo superstiti. Vabbè, altro che portare baracchino in macchina, no, per parlare con Sassari al ritorno. Quest'anno è particolarmente peggiore la situazione. Non so se sulla ruota del 20 stiano entrando, sai, la ruota del 20, boh. Vabbè, dai, noi la prendiamo come viene. Se non entra nessuno, pazienza, il baracchino lo mettiamo nel cassetto e buonanotte al secchio, io ho altri hobby anche. Vabbè che sul 20 spesso anche parlano in PMR, quindi quando lo senti sul 20 potrebbero essere in PMR, sul canale PMR, loro hanno queste due frequenze. Pomponio c'è da fare, perché sembra solo il fratello, quindi vai e viene. Pomponio, ci sei a proposito? Niente, non v'è un'anima. Vabbè, io preferisco andare al mare che stare al baracchino, francamente. Prendere aria, prendere un po' di sole e soprattutto stare in acqua, il possibile, così almeno caldo non ne hai. Veglia. Quindi io sono adesso, vabbè, allo stato brado, mi devo fare le solite cose, ripulire la borsa della roba da mangiare che è diventato un cimiciaio, abbiamo mischiato un po' tutto e se no puoi farlo all'ultimo momento l'indomani e viene a gre. Ripulire il mio, mettere la roba a asciugare, sai, il costume lavato, eccetera. E quindi mi metto all'opera, dai. Non sai perché lo faccio adesso, perché poi come tocco il letto per sdraiarmi, boh, drumito, capito? È proprio automatico. D'accordo? Ok. Ci sentiamo, ok, alle prossime. Speriamo che qualcuno si faccia sentire, se no qua è proprio da abbandonare tutto, Corsi e ricorsi storici. Per la questione del TVI ha saputo che quello che si lamentava in fondo al vicolo ha cambiato antenna e cavo. Così pare era fatto il figlio. Ha cambiato antenna e cavo e per adesso non si è più sentito. So che se non modula Antalino giustamente non può fare le prove. Non so cosa stia facendo lui, se stanno al mare, boh, non lo so. Poi mi è successo, pensa, domenica c'era gente, se non che modulando si è rovinato del tutto il PL si è rovinato del tutto, ho dovuto buttarlo e metterlo nuovo, non mi è venuto perfetto, perché ho sbagliato una misura, ma niente di grave comunque. Adesso posso, però l'ho rifatto stamattina il PL, quindi io non so se lunedì, martedì, mercoledì c'è entrata gente, capito? L'ho fatto solo oggi, lo spinotto nuovo, quindi non ho notizie degli ultimi tre giorni, in poche parole. Questo PL tendeva a ruotare, no? Quindi ho detto, se ruota tutto, magari la saldatura fatta da Pomponi anni fa non tiene più, tocca non tocca. Infatti mi avevano detto che ogni tanto il mio segnale cadeva. in più cercando di rimettere a posto tutto si è rotto proprio il centrale del PL, il pilulino del PL, ho preso i nuovi da fusaro, però non valgono niente, quelli col dielettrico bianco non servono a niente, perché si muove in avanti e indietro poi quell'isolatore bianco che hanno, tende a uscire, capito? Infatti ho chiesto, li avete in bacchelizze? No, terminati, sempre terminati, li devono aspettare, preferisco di gran lunga quelli in bacchelizze, costano di più perché te li fanno pagare un bel qua, ma sono molto molto migliori. Eia, no, 2 euro, ne ho presi 2 euro da fusaro, ne avrei preferiti in bacchelizze, poi io se mi girano appena arrivano in bacchelizze glielo faccio bene, però prendo tutte le misure in bacchelizze, così non si scioglie mentre saldi. Sì, certe volte li trovi da 10, che hanno quella bacchelizza marrone, no? E poi se serve a qualcuno glielo vendi a prezzo come la vendono a Sassari e noi ci fai il guadagno. No, magari qualcosa in meno, che ne so, anziché 4 euro glielo fai pagare 3 euro, ne vedi in mezzo tra quello in con l'isolatore bianco e quello. Però naturalmente qualcosa ci devi guadagnare, no? Il disturbo dove lo metti? Ah beh, anche per ammortizzare le spese di spedizione, sì. C'è qualche anima pia all'ascolto, qualche, non lo so, ma che, veglia, mimì, lo sbadiglio del sonno, ok, dai, ci sentiamo, buon tutto fra, alle prossime.